Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Si può dire che tutti i miei guai sono iniziati proprio il giorno che rimisi piede a Castle Brady. Mio cugino, Master Mick, un mostruoso gigante diciannovenne, mi odiava e vi assicuro che lo ricambiavo di cuore, mi insultò a pranzo rinfacciandomi la povertà di mia madre, seguito da risolini di tutte le ragazze della famiglia. Così, quando poi andammo nelle stalle, dove Mick si faceva sempre una pipata di tabacco dopo pranzo, gli dissi tutto quello che pensavo di lui. La lotta durò 10 minuti. Mi comportai da uomo. Gli feci un occhio nero, il sinistro, e avevo solo 12 anni. Naturalmente mi mise a terra, ma una ripassata fa poca impressione a quell'età così tenera. Me n'ero già accorto molte volte nelle mie battaglie con i piccoli pezzenti di Bradystown, nessuno dei quali mi stava alla pari. Mio zio fu molto soddisfatto quando seppe della mia prodezza. La cugina Nora portò aceto e carta da pacchi per medicarmi il naso, e quella notte tornai a casa con mezzo litro di chiaretto in corpo. E non poco fiero, lasciatemelo dire, di aver tenuto testa a Mick tanto a lungo. E adesso, benché Mick continuasse a trattarmi male e mi pigliasse a legnate non appena gli capitavo tra i piedi, fui molto contento di stare a Castle Brady con la compagnia che c'era laggiù e di vedere i miei cugini, non tutti, e mio zio, che era sempre così gentile con me. Divenni di gran lunga il suo favorito. Mi comprò un puledro e mi insegnò a cavalcare. Mi portava a caccia di lepri, di uccelli e mi mostrava come si tira a volo. Poi, finalmente, fui liberato anche dalla persecuzione di Mick. Suo fratello, Master Ulick, tornò da Trinity College e, dato che odiava Mick, come spesso si usa tra fratelli di buona famiglia, mi prese sotto la sua protezione. Ulick era ben più grosso e robusto di Mick e io, Redmond, l'inglese, così mi chiamavano, venni lasciato in pace. Salvo quando a Ulick stesso pareva il caso di frustarmi, cioè ogni volta che gli andava. Allo stesso tempo non venne trascurata la parte più ornamentale della mia educazione, visto che avevo una rara inclinazione naturale in molti campi diversi. Raffinando le mie doti, ben presto superai quasi tutti attorno a me. Avevo orecchio, una bella voce, che mia madre aveva coltivato con ogni cura, mentre, insegnandomi a ballare il minuetto con gravità e grazia, aveva posto le basi del mio futuro successo nella vita. I balli popolari li imparai, forse non dovrei confessarlo, nella stanza della servitù. Potete star certi che non mancava mai un pifferaio. Venivo considerato un asso nel ballare la piva, e anche la giga. Veniamo a quello che si può imparare dai libri. Mi era sempre piaciuto molto leggere drammi e romanzi, che sono la parte migliore dell'educazione di un uomo di mondo. E quando avevo un soldo non passava ambulante del villaggio senza che lo fermassi per farmi dare una o due ballate. Quanto a quella barba della grammatica, e il greco, e il latino, e questo e quello, li ho sempre odiati fin da ragazzo, dicendo subito e molto francamente che non ne volevo sapere. Queste mie intenzioni le manifestai in modo piuttosto chiaro all'età di 13 anni, quando mia madre ebbe in eredità da mia zia 100 sterline e pensò di usarle per la mia educazione. Mi mandò alla famosa accademia del dottor Tobias Tickler, ma 6 settimane dopo essere stato consegnato al reverendo, riapparsi all'improvviso a Castle Brady. C'erano volute 40 miglia di marcia per allontanarmi da quel luogo odioso dove avevo lasciato il dottore in stato quasi apoplettico. Il fatto è che a biglie, guardie e ladri e pugilato ero il primo della scuola, ma non c'era modo di farmi andare bene nello studio dei classici. Dopo essere stato fustigato 7 volte senza che il mio latino ne traesse il minimo vantaggio, rifiutai di sottomettermi a un'ottava applicazione della frusta. Mi pareva del tutto inutile. «Provi in qualche altro modo, signore», dissi, mentre il dottor Tickler si preparava a darmi un'altra ripassata. Lui però non voleva, e allora io, per difendermi, gli tirai addosso una lavagnetta e poi, con un calamaio di piombo, stesi il bidello scozzese. Tutti i ragazzi mi acclamavano. Qualcuno degli inservienti, invece, voleva fermarmi, ma io avevo già tirato fuori un grosso coltello a serramanico, dono di mia cugina Nora, e giurai che l'avrei cacciato nel panciotto del primo che osava mettersi in mezzo. E diamine! Allora sì che mi fecero passare. Quella notte dormii a 20 miglia dall'Accademia, nella casa di un contadino che mi diede patate e latte, e che ripagai con 100 guinee molto, molto tempo dopo, quando tornai in Irlanda nei giorni della mia grandezza. Vorrei averli ora, quei soldi. Ma a che servono i rimpianti? Ho spesso dormito su letti più duri di quello su cui riposerò stanotte, e mangiato pasti più magri di ciò che quell'onest'uomo di Phil Murphy mi offrì la sera che scappai dalla scuola. E così, 6 settimane di scuola sono tutta l'educazione che io ho avuto. Questo lo dico perché i genitori conoscano il valore dello studio. In giro per il mondo ne ho incontrati tanti, di coltissimi topi di biblioteca. Primo fra tutti un dottorone vecchio e grasso e goffo e cisposo, lo chiamavano Johnson. Viveva in una piazzetta accanto a Fleet Street, a Londra. Ma in una discussione con lui al caffè Buttons, in 4:48 lo misi a tacere. E su quell'argomento lì, e di poesia, e di quella che io chiamavo filosofia naturale o scienza della vita, e di corse dei cavalli, musica, salto dei cavalli, spadino, dell'arte di valutare un cavallo, di lotta dei galli, e di tutto il modo di fare di un perfetto gentiluomo e uomo di mondo, quanto a me dico che Redmond Barry ha ben di rado trovato chi gli stesse alla pari. Signore, dissi a Mr. Johnson in quell'occasione, in risposta a un'altisonante citazione in greco di quel maestro di scuola, lei crede di saperne tanto più di me perché sa citare il suo Aristotele e il suo Plutone? Ma lo sa quale cavallo vincerà la settimana prossima? Sa correre 6 miglia senza fermarsi e riprendere fiato? Sa sparare a un asso di picche 10 volte senza mancare un colpo? Se mi risponde di sì, venga pure a parlarmi di Aristotele e Plutone. Ma sto divagando. Devo far ritorno a casa e alla buona vecchia Irlanda. Negli anni successivi ho fatto conoscenza con i più bei nomi dell'isola e i miei modi, come ho detto, sono tali da mettermi alla pari con tutti loro. Così forse vi chiederete in che modo un ragazzo di campagna come ero io, educato tra i piccoli possidenti e i loro dipendenti di stalla e fattoria, avesse acquisito quel modo di fare così elegante che mi veniva riconosciuto da tutti senza discussione. Il fatto è che avevo un istruttore di prim'ordine nella persona di un vecchio guardiacaccia che aveva servito il re di Francia a Fontenoy. Mi insegnò i balli dei francesi, le loro usanze e anche un'infarinatura della lingua e poi l'uso della spada e dello spadino. Quante miglia ho percorso da ragazzo arrancando al suo fianco mentre mi raccontava meravigliose storie sul re di Francia, sulla brigata irlandese, sul maresciallo di Saxe, sulle ballerine dell'opera. Aveva conosciuto persino mio zio, lo chevalier. Insomma, sapeva 1000 cose diverse e in gran segreto mi insegnò tutto quanto. Non ho mai conosciuto nessuno più bravo di lui a fabbricare una mosca o lanciare la lenza, a curare un cavallo o domarlo o saperlo scegliere. Mi insegnava tutti gli sport virili, dallo svuotarnidi in su. Per me, Phil Purcell rimarrà sempre, senza paragone, il miglior istitutore che potessi avere. Aveva un solo difetto. Beveva. Ma su questo ho sempre chiuso un occhio. Inoltre odiava mio cugino Mick come il veleno, e anche di questo, per parte mia, era perdonato. Grazie a Phil, a 15 anni, ero un uomo con un'educazione che a entrambi i miei cugini ancora mancava. E credo anche che madre natura fosse stata più generosa con me quanto al mio aspetto fisico. Qualcuna delle ragazze di Castle Brady, come sentirete tra poco, mi adorava. Alle fiere e alle corse, molte delle fanciulle più graziose dicevano che mi avrebbero voluto come cavaliere. Eppure devo riconoscere che, per un motivo o per l'altro, non ero popolare. In primo luogo, tutti sapevano che ero povero in canna, e penso che, forse proprio per colpa della mia buona madre, fossi tanto povero quanto orgoglioso. Avevo l'abitudine, quando ero in compagnia, di vantarmi del mio sangue, come pure dello splendore delle mie carrozze, dei miei giardini, delle mie cantine, dei miei domestici e tutto quanto davanti a persone che erano perfettamente al corrente delle mie reali condizioni. Se erano ragazzi e si azzardavano a pigliarmi in giro, dovevo assolutamente picchiarli a costo della mia vita. E non erano poche le volte che venivo riportato a casa dopo che uno o più di loro ne avevano quasi ammazzato di botte, per motivi che, alle domande di mia madre, descrivevo come disaccordi familiari. «Difendi il tuo nome anche col sangue, Reddy, ragazzo mio», diceva quella santa con le lacrime agli occhi, perché lei avrebbe fatto lo stesso, con la voce, sì, ma anche con le unghie e con i denti. Così, quando avevo 15 anni, non si trovava un ventenne in un raggio di 6 miglia che io non avessi picchiato per questa o quella ragione. C'erano i due figli del vicario di Castle Brady. Non potevo certo mescolarmi a mocciosi pezzenti come loro. E così combattemmo molte battaglie per stabilire a chi si dovesse cedere il passo nelle vie di Bradystown. C'era Pat Bargan, il figlio del fabbro, che riuscì a battermi 4 volte prima che arrivassimo allo scontro finale, in cui io lo schiacciai. Potrei nominare ancora una 20ina di prodezze simili, ma queste storie di cazzotti sono davvero troppo futili, soprattutto a discuterne davanti a un pubblico di gentiluomini e gentildonne d'alto rango. C'è però un altro argomento, gentili lettrici, di cui devo discorrere, un tema che non è mai fuori luogo. Giorno e notte vi piace sentirne parlare. Giovani e vecchie, l'avete nei vostri sogni, nei vostri pensieri. Belle e brutte, e a dir la verità, tra le donne sotto i 50 non ne ho mai vista una sola che fosse insipida. Questo è il soggetto più caro al cuore di voi tutte. Credo che abbiate già risolto l'indovinello senza difficoltà. Amore. Certamente questa parola è formata apposta con le vocali e con le consonanti più graziose e dolci della nostra lingua. E chi non vuole sentirne parlare, uomo o donna che sia, secondo me, non vale un fico secco. La famiglia di mio zio comprendeva 10 figli, i quali, come accade nelle grandi famiglie, erano divise in 2 campi avversi, in 2 partiti, di cui uno prendeva le parti della cara mamma e l'altro seguiva mio zio. E questo in tutte le numerose liti che scoppiavano tra quel gentiluomo e la sua consorte. La fazione di mia zia era capeggiata da Mick, il maggiore dei maschi, che oltre a odiare me, ce l'aveva con mio zio, che non voleva affidargli una parte della proprietà. Invece Ulick, il secondogenito, era il prediletto di suo padre e di conseguenza Master Mick ne aveva una paura folle. Non c'è bisogno che io elenchi i nomi delle ragazze. Dio sa se non mi hanno procurato abbastanza rogne nella vita, soprattutto una di loro, che fu la causa di tutte le mie prime sventure. Era, anche se tutte le sorelle naturalmente lo negavano, la bellezza della famiglia e si chiamava Miss Honoria Brady. A quell'epoca diceva di avere solo 19 anni, ma io ero capace quanto chiunque altro di leggere il frontespizio della Bibbia di famiglia. Uno dei 3 libri che insieme alla scatola della tavola reale costituivano l'intera biblioteca di mio zio. Esso, che era nata nel 37 e che l'aveva battezzata il dottor Swift, decano di St. Patrick a Dublino. Dunque aveva 23 anni al tempo in cui io e lei stavamo tanto in compagnia. Quando ripenso a lei, ora mi rendo conto che non poteva certo essere una grande bellezza. La sua corporatura era, tutto sommato, delle più grasse, la bocca delle più larghe, la pelle cosparsa di lentiggini come un uovo di pernice e i capelli del colore di una certa verdura che si mangia con il manzo bollito, per usare il paragone più benevolo. Queste osservazioni mia madre le ripeteva di continuo, ma io a quel tempo non ci credevo, anzi ero riuscito, non so come, a convincermi che Honoria fosse una creatura angelica e ben superiore a tutti gli altri angeli del suo sesso. Sappiamo tutti che una signora dotata per la danza o per il canto non può mai perfezionarsi senza uno studio assiduo. La canzone o il minuetto eseguiti con grazia e fluidità nella sala del ricevimento, sono stati guadagnati a prezzo di grande fatica e perseveranza in privato. Altrettanto vale per le care creature che hanno una predisposizione per la civetteria. Honoria, per esempio, si allenava sempre e mi usava, povero me, per provare la sua parte, così come altre volte si serviva dell'ispettore fiscale quando veniva per il suo giro, o del maggiordomo, o del povero curato, o del garzone del giovane farmacista di Bradystown. Ricordo che una volta lo picchiai per questo motivo. Se è ancora vivo, gli porgo le mie scuse. Poveraccio. Come se fosse stata colpa sua se era rimasto vittima di una donna che, a tener presente la sua vita oscura e la sua rustica educazione, doveva essere una delle più abili civette del mondo intero. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.